A bordo campo di Dario Ricci. Oggi A bordo campo va in trasferta, siamo qui per le strade di Milano nella palestra della OP Gym. Parliamo di pugilato con non è sbagliato, credo, definirlo il simbolo del pugilato italiano, almeno nell'ultimo decennio. Giacobbe Fragomeni, benvenuto a Radio 24 A bordo campo. Grazie, un saluto a tutti quanti e troppi complimenti per essere un vecchietto del pugilato, grazie. Sì, siamo qua a Milano di passaggio e quindi ogni volta che vengo qua a Milano mi ritrovo in questa palestra ad allenarmi. E beh, insomma, qua sotto gli occhi e tra le mani proprio questi pugni di Giacobbe, che sta preparando un grande appuntamento. 25 novembre si torna a combattere qui a Milano per il titolo mondiale contro un altro grande simbolo del pugilato italiano, Silvio Branco. Beh, un match da 5 stelle, no Giacobbe? Per gli appassionati sì, un match da 5 stelle, anche perché abbiamo due caratteristiche diverse. Io sono uno che va avanti, lui invece è uno che respinge il mio attacco, quindi dovrebbe saltare fuori un match, come dici te, 5 stelle, interessante, entusiasmante sicuramente, e il fatto che noi ci conosciamo si accenderà ancora di più, quindi spero, mi preparo io, sicuramente anche Silvio, e ci prepareremo per fare un grande match, anche perché tutti e due comunque vorremmo vincere. Per te c'è anche l'abbraccio, l'affetto della tua Milano, che tanta gloria ti ha regalato, ma anche tanta pressione, tanto ti chiede, perché sei un po' l'emblema del pugilato anche milanese in questo momento. Ecco, senti più la pressione o è più l'incitamento che ti arriva dai tuoi tifosi? Ma guarda, la pressione più che altro è per far bene, quindi quando combatti in un'altra città è una piccola pressione, perché appunto indipendentemente dal fatto che voglio fare una buona figura, un bel match, quindi mi ricarico di queste cose qua, però poi dopo quando salgo sul ring mi devo togliere dalla testa tutte queste cose qua, perché sennò è anche brutto, perché mi indurisco, mi impressiono queste cose qua, quindi cercherò di togliermi via questa pressione e appunto fare una bella figura. Quindi poi Milano è la mia città, cioè i miei tifosi, quindi voglio fare il massimo, voglio dare il massimo, dare un grande spettacolo e poi voglio vincere. Quindi. Sembra ieri, sono passati però già 3 anni da quel 24 ottobre del 2008, infatti quando conquistavi proprio in un Palalido stracolmo il titolo mondiale contro Krajci, no? Che serata fantastica, Rudolf Krajci. Sì, serata fantastica, è un'emozione grandissima, poi nella mia città, il pubblico ha risposto alla grande, sai, vorrei ripetere ancora una volta questa cosa qua, richiamare il mio pubblico, vincere e fare una bella impressione, anche perché poi non è che voglio smettere, io voglio continuare, ho 42 anni ma vorrei continuare fino a 45, quindi voglio dare altre emozioni sia a me stesso che ai miei tifosi. Sicuro ne arriveranno di emozioni, però ti faccio anche una domanda magari un po' critica, nel senso il fatto di trovare ancora te, Branco, grandi campioni, protagonisti del pugilato italiano, ma anche ultra quarantenni, non è forse anche il segno di una difficoltà per questo sport nel lanciare nuovi talenti, trovare nuovi personaggi? Beh, sotto questo aspetto hai ragione, però comunque credo che, sai, noi siamo duri a morire, come si suol dire, no? Però non è vero che non ci sono ragazzi, che non c'è il futuro. Il problema è uno solo, che rimangano dilettanti, perché il dilettantismo comunque ti dà una sicurezza per quanto riguarda a livello economico, tutte queste cose qua, sei coccolato, giri il mondo, ti diverti, questo te lo dico perché io sono stato 10 anni in nazionale, quindi è normale, però c'è anche il fatto di quelli che non hanno voglia di sistemarsi e vogliono sfidare la sorte e passare al professionismo. E io vedo che nelle palestre comunque ci sono molti ragazzi, sono tutte frequentate le palestre di pugilato, poi ragazzi ce ne sono, il problema è che la voglia, Il problema è la tenacia, il fatto di tornare in palestra, perché se uno ha la voglia, la grinta al momento, poi è difficile mantenere. Io vengo in palestra, faccio un mese e poi dopo si rompono le scatole. Però c'è quello che si vuole affermare, c'è quello che vuole andare avanti, c'è quello che gli piace, c'è quello che si appassiona. E comunque talenti ce ne sono. Io vedo nel nostro piccolo, nella nostra società, la OP 2000, che ha un sacco di ragazzi che stanno crescendo, e uno di questi è anche mio nipote, Moscatiello. So che c'è proprio un bel cazzotto anche da KO, vero? Quello che magari a te, senza offese, per carità, non ti arrabbiare, perché io non le reggo le 5 riprese, però magari tu sei più un pugile tattico, no? Per alcuni aspetti, mentre lui proprio c'ha anche la papagna. Lui c'ha la papagna, avessi avuto io la sua papagna ero il Tyson italiano, però comunque io ho altre caratteristiche. Non sono uno che ti mette giù, però ti vado a demolire, diciamo, tra virgolette. E niente, ci sono questi ragazzi qua che stanno uscendo, quindi devono avere il loro tempo. Poi il pugilato non è vero che sta finendo, anzi sta crescendo, perché comunque se ci guardiamo in giro per il mondo, in America o in Germania, loro hanno la quantità, noi abbiamo la qualità. Siamo pochi, però quei pochi che siamo abbastanza forti. Ecco, facevi riferimento all'esperienza nazionale, di cui poi parleremo, perché c'è anche un'Olimpiade nel tuo palmarès, Sydney 2000. A proposito dei nostri campioni dilettanti, Cammarelle, Russo, Picardi, credi che si sia in qualche modo sbagliato a livello di politica federale nel voler mantenere questi talenti a livello dilettantistico? Abbiamo visto le medaglie raccolte a Pechino, l'obiettivo di Londra e anche quello del Mondiale 2009 di Milano, che in cui si voleva far cassa in termini di medagliere, ci si è riusciti, sì. Ma forse erano campioni che avrebbero potuto osare un po' di più, proprio alla luce del discorso che tu facevi, e scegliere anche il professionismo. No, credo proprio di sì. Questa politica è data dal fatto che comunque loro sono tutti poliziotti, e sei un poliziotto di lavoro, un poliziotto, quindi non può passare professionista e quindi rimane dilettante. Dovrebbero lasciare il gruppo militare. Il problema è una sicurezza, non possono lasciare, perché comunque poi nel professionismo è tutta un'altra cosa, il dilettantismo. Poi sono formate queste World Series, che sono allettanti, perché comunque ti danno altri soldi. Però uno, se vuole rischiare la sorte, è vero che il pugilato del professionismo, diventare campione del mondo. Io ho avuto la fortuna, l'onore di fare le Olimpiadi di Sydney. Avevo anche pensato di rimanere dilettante e fare quelle di Atene, però non ce n'è. Cioè, diventare campione del mondo del professionismo è tutta un'altra cosa. Rimani sempre campione olimpico, l'Olimpietto, quello che vuoi, però l'ispirazione, quando io ho iniziato a fare il pugilato, è diventare campione del mondo della WBC, dove Tyson, Marvin Hagler, Ali, tutte queste persone qua sono diventate campioni del mondo. Dicevamo, discorso Olimpiadi, ecco, quanto pesa in una carriera come la tua quell'esperienza olimpica? E poi ti chiedo come vedi il nostro pugilato per Londra. Ci sono grandi aspettative, ma anche la concorrenza è aumentata parecchio. Per quanto riguarda i nostri ragazzi, abbiamo dei grandi talenti, e poi lo sappiamo, Valentino, Cammarelle, non voglio togliere gli altri nomi, tutti quanti, la squadra azzurra sono forti. Abbiamo dei ricambi in tutto il mondo, c'è gente, infatti si è visto adesso in questi mondi di qua, che c'è gente che è forte. Spero che loro adesso si preparino bene per poi portare a casa le medaglie olimpiche. Credo che ce la facciano. L'esperienza olimpica, sai, io sono rimasto dilettante per tanto tempo, appunto per fare le Olimpiadi. Se non mi fossi spaccato la mano ad Atlanta, magari passavo primo professionista alle Olimpiadi di Atlanta. Quindi sono rimasto fino a Sydney, e sai, l'amarezza di perdere come hanno fatto perdere è rimasta. Però comunque l'onore, la gioia, fare un'Olimpiade non è da tutti. Puoi essere anche l'uomo più ricco del mondo, non puoi comprare per andare a fare le Olimpiadi. Quindi che dire, come posso ringraziare questo sport? Non potrò mai finire di ringraziare questo sport, perché ho avuto l'occasione, la fortuna di fare un'Olimpiade. Quindi meglio di così sai, avrei voluto vincere, non è che perché sono un vincente, non sono un perdente. Comunque è andata bene lo stesso. Ho partecipato alle Olimpiadi a Sydney, poi, che è una bella città, un bel posto, e mi sono divertito. È rimasta un po' l'amarezza in bocca, però, anche perché quel periodo lì purtroppo stava morendo mia mamma, e io ho fatto le Olimpiadi, sono dovuto tornare subito indietro perché sono riuscito a vedere mia mamma all'ultimo momento, e poi mi ha salutato ed è stata un'emozione grande perché lei stava male, mi ha guardato, mi ha sorriso come per dire sono contento che sei venuto, ti vedo, adesso posso morire tranquilla. Quindi sei dall'amarezza alla gioia di questo ricordo che mi rimane per tutta la vita, che dire. Questa è la cosa pesante delle Olimpiadi di Sydney. Avrei voluto vincere per fargli questo regalo a lei, però me l'ha fatto lei a me il regalo. Quella di avermi aspettato e avermi sorriso. Un'emozione grandiosa. A bordo campo. Vince e diventa il nuovo campione dei pesi massimi del due fili che si intersecano sempre nella tua storia, no? Quella delle grandi emozioni, dei successi, della lotta sul ring e anche della lotta con te stesso che non hai avuto né paura di raccontare, no? L'hai raccontato anche in una tua biografia, la lotta contro le droghe, contro l'alcol. Alla fine forse la risposta è arrivata sempre sul ring, come dicevi tu, è stato il pugilato a tirarti fuori dalla stadera e portarti in cima al mondo, no? Sì, sì, è vero. Comunque non bisogna avere paura di raccontare le proprie storie, le proprie emozioni, per magari aiutare le persone che stanno più male di te. Io non ho fatto niente, cioè non l'ho fatto perché... L'ho fatto perché volevo liberarmi di tutto quello che avevo dentro ed è stata una grande cosa, no? Senza saperlo. Adesso, se nel tempo, andando avanti, sentendo queste cose, che dirti? Mi ha aiutato tanto, e poi vabbè, questo sport qua, che dire, se non fosse stato per questo sport magari adesso in questo momento non ero qua a parlare con te ma ero da un'altra parte. E io questo lo ringrazierò per tutta la vita, e devo ringraziare me stesso perché comunque sono stato io, ma se non avessi avuto un input, se questo sport non mi avesse dato tutto quello che ho adesso, non lo so. Giacomo è venuto in palestra per buttare via peso. Era un grassone, ciccione, flaccido. C'è stato anche un grande maestro, non solo di pugilato, ma di vita, no? Con te sul ring, ecco, Ottavio Tazzi, il nonno. Qual è l'insegnamento più grande che ti ha dato Ottavio? Vive e lascia vivere. Questo è l'insegnamento del nonno. E poi lui era il nonno, era un fratello, un amico. La cosa bella, quando ero in palestra, finivi l'allenamento, dopo aver fatto un allenamento duro, faticoso, non andavi a casa, rimanevi lì in palestra con i ragazzi, in ufficio con il nonno, a parlare, a ridere, a scherzare, a parlare dei problemi. E non te ne volevi andare perché sentivi proprio di essere in famiglia, e questa cosa mi ha insegnato a vivere perché mi ha insegnato a stare insieme agli altri, a parlare con le persone, il nonno mi ha insegnato a fare tutte queste cose qua. Adesso lui si metteva, avevamo questo vizio qua, cioè c'era un pugile che faceva il panettiere e portava la focaccia, un altro portava il vino, l'altro portava, allora ci si rimaneva seduti in ufficio con il nonno, dai nonno, taglio il salame, ma dai, devi fare il peso, ma nonno, ma devo combattere tra un po', no? Allora via, salame, così, e poi uno aveva un problema, lo esponeva, e se si poteva fare qualcosa, la si faceva, e così è nata questa cosa qua, del fatto che devi veramente vivere e lasciar vivere gli altri, quindi... Un insegnamento forte del nonno è stata questa cosa qua. Poi non è mai stato geloso, non è mai stato possessivo, e diciamo che queste cose me le ha insegnate per questi momenti, per queste cose, che quando vedo che sei in alcune palestre ci sono dei ragazzi che stanno crescendo, i loro maestri non li fanno crescere, non gli danno il salto di qualità perché se lo vogliono tenere in palestra, che è sbagliatissimo. Tu devi andare in un'altra palestra a imparare, non so, altri movimenti, altri allenamenti, altre cose, cioè non puoi stare sempre nella tua palestra ad fare il tuo, tenerti il tuo campioncino e non farlo vedere nessuno perché pensi che te lo portano via. A me invece il nonno mi ha insegnato, vai, impara. Senti Giacobbe, ti chiedo ancora un'altra battuta sul pugilato femminile. A Londra ci sarà l'esordio del pugilato femminile in alcune categorie, anche il pugilato italiano ha avuto e ha delle grandi campionesse, una su tutto Simona Galassi, Stefania Bianchini, ecco, è una strada che può avere un futuro dal punto di vista tecnico, come lo vedi questo progetto che adesso si sta consolidando, ma insomma è un pugilato femminile che ha guadagnato finalmente credibilità tecnica? Io non ho niente contro il pugilato femminile, non ho niente contro le donne, anzi... meno male che ci sono stati loro, cioè, perché hanno anche un po', come dire, rilanciato il pugilato, no? Nel mondo, in Italia, nel mondo. Però la donna deve fare la donna, non può fare il pugilato. È brutto vedere una donna che fa pugilato, che sputa in allenamento, che fa, cioè, la donna deve essere donna in tutte le sue maniere. Quello, sai che trovi qualche pugilista, no, boxer che ti mette al tappeto, eh? No, tranquilla, sto con la Galassi, con la Bianchini, con la Morona, cioè abbiamo un buon rapporto, però ci mancherebbe altro. Io vedo la donna come donna, non la vedo come pugile. È brutto vedere una ragazza, poi ti affezioni a loro, è brutto vedere una ragazza con gli occhi neri, cioè la donna deve fare la donna. E vabbè, quindi insomma l'avete capito come la pensa Giacobbe Fragomeni. Giacobbe, senti, siamo veramente alle ultime battute di questo lungo match a bordo campo. Senti, cosa ti aspetti su questo ring con Silvio Branco e come va a finire? Lanciamogli una sfida. Dai, sai che sono tranquillo sotto questo aspetto, non voglio pescare la manzia e per come sono fatto io non do mai il risultato di quello che potrà succedere. L'unica cosa che potrà succedere, che io spero, che sarà veramente un grande match. Poi vincerà il migliore, vincerà il più fortunato, il più forte. Sai, non basta essere solo forti, bisogna essere anche fortunati nello sport. Quindi io spero che sia un grande match e di regalare agli appassionati di pugilato un bel ricordo che rimarrà per tutta la vita in Italia, ecco, questo qua mi prospetto. Allora Giacobbe Fragomeni, incrociamo i guantoni e grazie intanto di essere stato ospite di Radio 24 qui a bordo campo. Grazie a voi e sempre Forza Milan. Sono Giacobbe Fragomeni, vi aspetto qua a bordo campo su Radio 24 e se non venite vi do un gancio destro, un gancio sinistro e un montante al fegato. Oh, occhio ragazzi, questo fa sul serio, Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito web. L'appuntamento è per domenica prossima, come d'abitudine alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.